Mix 24 di Giovanni Minoli. I faccia a faccia della storia. Oggi a Mix24 per la serie Faccia a faccia della storia, curati da Sara Tardelli, va in onda l'intervista con Jorge Luis Borges, scrittore e poeta. Un incontro con uno dei più importanti autori del XX secolo. Jorge Luis Borges, argentino, l'Omero dei nostri tempi, il cieco più illuminato del XX secolo. Gli hanno detto che è il più grande scrittore vivente, ma lui ha detto che non è vivente, solo la letteratura vive. A 15 anni viaggia in Europa, studia in Svizzera, lavora in Spagna, studia oltre all'inglese, il francese, il tedesco, anche il latino e l'arabo. A 21 anni torna in Argentina, a 24 pubblica il primo libro e da allora infiniti saggi, ricerche e soprattutto poesie. Nel 1946 arriva Perón e lo caccia nominandolo ispettore di polli e conigli. Nel 1955 cade Perón e lui diventa direttore della Biblioteca Nazionale. Ormai è cieco, come Omero, ma continua con viaggi, conferenze e poesie. Nel 1973 torna Perón e lui va in pensione. Continua a viaggiare, a pubblicare, a illuminare la cultura con quel volto dagli occhi senza sole, ma limpidi e comunicativi come pochi. Si definisce vecchio anarchico individualista e apolitico, condanna i militari ma elogia la dittatura, scandalizza e passa oltre. Definirlo è impossibile, simile a tanti ma differenti da tutti, come un alieno prestato alla terra. Di sé dice: non ho messaggi, sono solo un uomo di lettere perplesso. Una volta vedevo il mondo esterno ma interferiva troppo, oggi il mondo è tutto dentro di me, vedo molto meglio perché posso vedere tutte le cose che sogno. Signor Borges, lei dice spesso che la cecità, lo abbiamo appena detto, le dà una grande intimità coi sogni. Ecco, ma che vantaggi dà all'uomo questa intimità coi sogni? Nel sogno molte cose mi risultano rivelate. Così per esempio parole libere che danno un verso, che mi forniscono degli spunti, degli argomenti. Nei sogni, insomma, e anche nella veglia, io sento questi elementi. Ecco, Borges, lei ha detto: non ho paura della morte, ma l'attendo con pazienza. Come la immagina questa morte? Ecco, la morte me la immagino come l'annientamento totale, quello che vorrei essere dimenticato, soprattutto dopo la morte. Essere cancellato dalla morte. Mio padre diceva: voglio morire col corpo e con l'anima, e anch'io spero di morire corpo e anima. Ecco. E mi dico sempre che posso contare su questa splendida avventura, questa speranza che è la morte. Ecco, lei ha detto: non credo in Dio, ma credo in un'entità superiore. Che differenza c'è? No, questa entità può essere collettiva. In realtà questa entità può essere collettiva, non personale. Io non posso credere in un Dio personale, bensì in un elemento etico, estetico, spirituale, in un ordinatore del mondo, ma non in un Signore che ci premia, che ci ricompensa, che ci castiga. Questo è impossibile per me e l'ho sempre pensata in questo modo. Credo che dobbiamo pensare che c'è un proposito in tutte queste cose e insomma ci troviamo non già in un caos, ma in un cosmos, magari un cosmos segreto, un cosmos misterioso che forse non ci sarà mai rivelato, ma che esiste e che è troppo complesso per essere compreso. Borges, per lei che cosa è l'amore? Il sentimento più vivo della mia vita. È il sentimento più profondo della mia vita. La lettura è anche come l'amicizia, come la lettura. Sono varie forme in cui l'amore si manifesta. Ecco, lei ha detto che leggere un libro è un'esperienza non meno essenziale che viaggiare per il mondo o innamorarsi. Ecco, lei ha letto molto, ha viaggiato molto, ma si è mai innamorato? Sto continuamente innamorato. Sono innamorato sempre, lo sono sempre stato, evidentemente di diverse persone. Ogni uomo, da quando nasce, si innamora e continua ad innamorarsi. Ecco, ma è vero quello che si dice, che lei ha divorziato dalla sua unica moglie perché lei non sognava mai di notte? Bueno, questo era uno dei suoi difetti. Era uno dei suoi difetti. Solo uno, non era l'unico. Sognare e sognare, eh? Ecco, ma... Sono sicuro che è impossibile dormire senza sognare. Perché secondo me è impossibile dormire senza sognare. Io del resto sogno prima di addormentarmi e quando mi sveglio come se uscissi da un sogno, ma a volte è anche un incubo da quello da cui esco. Comunque ho imparato a dominare questi sogni e sono sempre quelli che, gli stessi che mi accompagnano, che mi sono vicini e questo si ripete con panorami diversi, non tutte le notti, ma due o tre notti la settimana. È il sogno, l'incubo del labirinto anche a volte. Ecco, ma il Borges più vero allora qual è? Quello che parla, che stiamo vedendo adesso, oppure quello che sogna? Possibilmente il del sogno. Forse quello del sogno. Devo resignarmi al che habla. Ma bisogna che mi rassegni a quello che parla per vari motivi. Si tratta di una e in questo momento si tratta di una veglia, in questo momento poi molto gradevole perché sto conversando con voi da un continente all'altro. È una cosa magica in sé. Senta, Borges, ma lei l'ha incontrata nella vita una donna con cui sognare invece? No, desgraciatamente non incontré una. Purtroppo non ne ho incontrato una solo, ne ho incontrate molte. Uno sia mai sencillo. Forse, se fosse stata una, la cosa sarebbe stata più semplice. Senta, lei ha viaggiato sempre molto. Ecco, ma adesso che non vede, com'è il viaggiare in queste condizioni? No. Cioè, cosa è cambiato? Ti creo sentir los países. E io credo di sentire i paesi, forse mi sbaglio, ma li sento, li vivo, cioè mi sento, sentirmi a Nuova York per esempio è molto diverso dal sentirmi a Palermo per esempio, mettiamo a Parma o a Roma o magari a Edimburgo o in qualche altro paese. E le cose si sentono, i paesi si sentono. Come uno avverte l'amicizia, l'ostilità, l'indifferenza o l'intelligenza dell'altro, al di là, al di sopra delle parole. Anzi, a volte a dispetto delle parole stesse. E con questo modo si ricevono notizie tutto il giorno e le notizie non ci arrivano attraverso i sensi, ma in modo più misterioso, più intimo. Quindi cambiare paese le fa cambiare le cose che sente? Sì, o in tuo caso... Sì, o comunque, almeno credo che sia così. È necessario anche che creda che sia così. Devo dire che ho viaggiato molto. Da lettore perdetti la vista nel 55, non riuscivo più a leggere. Dal 55 non potevo né leggere né scrivere, ma potevo ricordare e in certo modo rileggere nella memoria. Ma adesso c'è qualcuno che legge per lei, che le legge libri, giornali o no? Bueno, periodico, periodico. In realtà non ho mai letto molti giornali, ma libri sì. Vengono amici a casa e mi leggono. E capita possiamo sempre avere questa collaborazione. Per esempio... mi faccio leggere Croce in italiano, mi piace tanto Dante, l'Ariosto e c'è chi mi aiuta per l'inglese per esempio anche, mi leggono Stevenson, Chesterton, College, Johnson e tanti tanti altri. Mi piacciono molto le lingue, mi piacciono le etimologie, la ecco, ricerca le lingue, etimologica. Le lingue, lei conosce tante lingue, qual è la lingua più bella secondo lei? Io vacillo tra l'alemanno e l'inglese. Io oscillerei tra il tedesco e l'inglese. Ma forse il tedesco mi piace di più perché è un idioma che ho conquistato. Mi ero proposto di studiare il tedesco, consigliato da Carlyle, il grande scrittore scozzese. Mi misi al tedesco verso il 1916-17. Cominciò con il Lyrisches Intermezzo, il Buch der Lieder di Heine e avevo sott'occhio il dizionario tedesco-inglese. E dovetti superare molte difficoltà e dopo pochi mesi però ero in grado di leggere le poesie di Heine, un tedesco molto semplice, tutto si risolve in usignolo, tristezza, amore, dolore e dopo pochi mesi io leggevo queste poesie con molto piacere e le capivo. E poi ho studiato altre lingue, partendo dal 55, anche l'inglese antico, l'islandese, e ora mi piacerebbe cominciare con il giapponese, ma sono ancora alle prime armi, perché è una lingua estremamente difficile. Solo contare i numeri è un rompicapo. Senta, Borges, dell'Italia che cos'è che le piace di più? Contestaria con una sola parola. Io risponderei con una parola solo. Tutto. Conosco bene il nord. E la città che le piace di più qual è? Sì, sono stato in Sicilia, a Palermo, ma il nord lo conosco bene, e Roma ovviamente. E sono tante le città splendide del nord, diverse, diversissime l'una dall'altra. Parma, Padova per esempio, e poi Firenze e Venezia. Lei ha definito l'Ulisse di Joyce un fallimento, perché? Perché è illeggibile. È perché non si può leggere, un libro deve essere leggibile, se non si può leggere. Ora, è una specie di reductio ad absurdum. Secondo lei, Borges, oggi dov'è il centro del mondo? Cioè, per intenderci, quello che una volta era Atene o Roma, c'è un centro del mondo oggi? Credo di sì, e penso che sia l'Europa. Lei si sente più di cultura europea o sudamericana? Il latinoamericano è europeo. Io sono europeo, e dire latino ci si riferisce al Lazio e poi all'Europa. Ma credo che tutti gli americani del nord, della zona dei Caraibi, del sud, siamo tutti europei esiliati, ma in un esilio felice, poiché ci permette di sentirci europei e non soltanto italiani, scozzesi, irlandesi o francesi o russi o portoghesi e così via. Noi possiamo essere europei al di sopra di queste differenze, godere della cultura occidentale, che del resto non è solo occidentale ma anche orientale. Ecco, ma degli scrittori latinoamericani qual è quello che preferisce? Alfonso Reyes, che ha scritto la migliore prosa castigliana, ma c'è anche un noveliere messicano che invidio, che è Ruela. Mix 24, i faccia a faccia della storia. A Mix 24 continua l'intervista con Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, in un suo famoso racconto, La biblioteca di Babele, sono prefigurate, si parla di situazioni di libro che oggi si potrebbero dire più o meno esperate alla memoria dei computer. Ecco, come scrittore, come uomo di cultura, le interessano i computer? Vorrei intenderle. Mi piacerebbe poterli capire gli elaboratori, come mi piacerebbe anche capire come si è arrivati alla Luna, ma non ci arrivo e tante altre cose non le capisco. Io sono un uomo di pura cultura letteraria, per quanto riguarda la scienza confesso la mia profonda ignoranza, anche se mi sento molto curioso. L'algebra mi ha interessato, ma in generale per la scienza sono piuttosto ignorante del tutto, direi, ma le ammiro dalla mia rispettosa ignoranza. Ecco, ma lei cosa pensa di questo grande sviluppo dei mass media, in particolare della televisione? Io credo che sono strumenti che i media non possono essere colpati. Effettivamente non bisogna dar la colpa al mezzo meccanico, ma alla voce, alla scrittura, alla stampa. Non si può dar la voce a questi elementi, che sono tutti mezzi. Purtroppo, a volte vengono usati in modo piuttosto superficiale, frivolo, per la politica, per gli sport. A proposito di questo, Borges, lei un giorno ha detto: se io dovessi indicare il principale avvenimento della mia vita, direi che fu senz'altro la biblioteca, l'incontro con la biblioteca di mio padre. Ecco, tra 100 anni... secondo lei pensa che si potrà dire la stessa cosa di una nastroteca di prodotti televisivi? Avranno la stessa importanza, cioè? È un po' difficile dirlo, perché il fatto è che accettiamo l'idea del libro sacro, ma non del disco sacro, ma forse in futuro avremo anche i dischi sacri o il telefono sacro o chissà che diavoleria. Ma mi riesce difficile pensarlo per il momento. Il libro ha un suo prestigio, ha un suo fascino. Forse è questione di farci la mano. Ecco, lei si definisce un anarchico individualista. e sostiene che i politici non possono essere... Herbert Spencer, un inoffensivo anarchista. Sì, sono un anarchico, ma inoffensivo. E credo che il governo per il momento sia un male necessario. Ecco, ma lei molti anni fa ha fatto l'elogio della rivoluzione d'ottobre, poi ha fatto anche quello di Franco e di Pinochet. Come mai questi accostamenti? No, in realtà non li ho mai lodati. Sono stato contrario in linea di principio. Per quanto riguarda Pinochet, le cose sono andate diverse. Mi hanno fatto dottore honoris causa a Santiago, all'Università di Santiago, e naturalmente avrei potuto rifiutare e trovarmi al fianco di un tiranno. Ma durante il regime, io ho scritto contro Perón quando c'era Perón, ho scritto sul terrorismo, ho scritto contro il governo militare, ho scritto anche contro quelli che vengono definiti le scomparse, le desapariciones, eufemisticamente, e anche contro la più misteriosa delle guerre. E l'ho fatto a Buenos Aires, e non c'è bisogno che lo ripeta qui, ma non ho mai lodato quei personaggi. Ecco, ma lei come pensa che un popolo così importante come il popolo argentino abbia potuto sopportare un'offesa come quella dei desaparecidos? Si era sopportato Perón e poi i militari, a questo punto si può sopportare qualsiasi cosa, tutto è possibile. E del resto io il mio paese lo capisco poco, come capisco poco l'universo, e a volte anche me stesso capisco pochino, e solo Dio può intendere le cose. Il presente è così complicato che è difficilissimo comprenderlo. Ecco, lei però recentemente ha detto: credo di essere favorevole a una dittatura illuminata e non demagogica. Ecco, ma chi è che incarna questo ideale oggi, secondo lei? Nadie. Nessuno. Io sarei un pessimo dittatore. E nel passato c'è qualcuno che ha incarnato questo modello? Io non lo so. Non lo so, ma credo che nessuno, quanto io so. Io detesto i dittatori soprattutto quando sono militari. Certo, Napoleone, Hitler, appunto. Borges, lei ha detto di sé, torniamo alla poesia, ha detto: ho sempre pensato a me stesso come uno scrittore, ancor prima di scrivere un libro. E sì. poi mi faccia finire, ha detto anche: la poesia è una musica, una necessità intima dell'anima, ed è tutto. Allora, secondo lei si può essere scrittori e poeti senza scrivere mai? Si può essere scrittori e poeti senza aver mai scritto? Forse sarebbe bene essere scrittore o poeta in questo modo, sarebbe più comodo. Ecco, ma come mai lei non ha mai scritto un romanzo? Perché non sono il lettore del novello. Perché io non leggo romanzi. Al di fuori di Conrad, di Tolstoi, di Dickens e della seconda parte del Chisciotte, non ho letto romanzi, non mi piacciono. È un genere molto troppo artificioso. Invece ho letto molti poemi epici, lunghi anche. E poi Conrad, ecco, quello sarebbe il romanziere per eccellenza per me. Altri posso dimenticarmeli. Ecco, ma le caratteristiche secondo lei di un romanziere moderno quali dovrebbero essere? Non so che sentito tiene la parola. Non so che cosa vuol dire moderno. Una persona moderna è chi non vive nel passato né nel futuro. E allora che cosa saremo moderni? Effimeri, contemporanei, senza radici, senza foglie. Non saremo nulla. Nemmeno i futuristi guardavano al futuro. Vivono il loro tempo. Senta Borges, il personaggio di un suo racconto si mette in testa di riscrivere Don Chisciotte, però dopo uno sforzo immenso riesce a riscrivere solo poche pagine del primo capitolo. Ecco, perché? Secondo me è una broma. Ovviamente è uno scherzo. Tutto il racconto è uno scherzo, non bisogna prenderlo sul serio. Anche il titolo è uno scherzo, è vero? Juan Menar, autore del Chisciotte. È uno scherzo. Nient'altro. E non bisogna prenderlo sul serio. Quello che si scrive non bisogna prenderlo troppo sul serio. La gente lo prende troppo sul serio. Io non so perché. Io non lo penso così. Però a proposito di prendere sul serio, lei dice che la realtà e la storia sono poco importanti. E invece importante e creativa è solo la parola e la scrittura. Allora bisogna prenderla sul serio. Come vuole, come vuole. Io non impongo certo le mie opinioni. No, ognuno le usa a modo suo. Volevo dire, lei cosa intende quando dice che la parola e la scrittura sono creative e basta, e non la storia e la realtà? Che intende? Che la realtà stessa, le vieja parola, sì? Le vieja favole. Che è fatta di vecchie parole, di vecchie favole, di mitologia. La realtà poi non è niente. È bastante irreale. E questa è la caratteristica dell'irreale. Borges, a proposito di irreale, ci sono tre motivi fondamentali nella sua opera, che sono il labirinto, lo specchio e il sogno. Lei brevemente potrebbe definirceli? No, sono temi... No, sono temi che mi si sono imposti, non li ho cercati io, sono venuti a trovarmi loro. E credo che gli scrittori in genere ricevono, noi riceviamo questi messaggi, ma naturalmente comunicandoli non abbiamo sempre successo. Ad ogni modo lo scrittore è un tramite, riceve notizie misteriose, non si sa da dove, non si sa da chi, le riceve e credo io nell'antica dottrina classica, quella della musica, del ruach, dello spirito o della grande memoria del cosmo, della grande memoria della umanità. Ma della se lei, ecco, ma se lei dovesse andare in un'isola e portarsi un gioco che si fa spesso e portarsi solo tre libri per sempre, che libri si porterebbe? Bueno, in primer termine, anzitutto storia, prenderei la storia della filosofia occidentale di Bertrand Russell e poi un'opera di Stuart Mill e poi Il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer. Libri di filosofia soprattutto. E il Vangelo non lo porterebbe? No, io credo che no. No, credo di no. Del resto è incluso nella storia della filosofia. Senta Borges, un'ultima domanda. Lei pensa, in base alla sua esperienza, attraverso tutte le età della vita, che i vecchi abbiano qualcosa veramente da insegnare ai giovani su come vivere e su come prepararsi a morire? No, mio padre mi, no, mio padre mi diceva che nessuno può insegnare nulla a nessuno, ognuno deve cercare di salvarsi da sé. Era professore di psicologia a Buenos Aires e mi diceva, no, in ogni caso sono i figli piuttosto quelli che educano i genitori. Grazie.